Your headlights are on. Sono le ore 21 qui a Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. E sul web www.ondarossa.info. Sul web si possono trovare anche le varie modalità di adesione per quanto riguarda la sottoscrizione per Radio Onda Rossa, in primis il nostro crowdfunding. Una operazione di insieme a produzioni dal basso che andrà avanti sino a settembre e che è assolutamente necessario fare. La radio ha molte spese di gestione, compreso anche il fatto che il DAB è un passaggio ineludibile. Abbiamo iniziato a Terni e pian pianino prenderà tutta, diciamo, lo spazio possibile e immaginabile. Detto ciò, vado a salutare i già parecchi affezionati all'ascolto. Saluto Antonio Zoviet, Tiziano Zeno Farinacci di P. Greco, Tabula Rasa, Cortina d'Ampezzo. In Sardegna, progetto sonoro di Marco Mascia, Ernesti Panico Brusati di Panico Palcoscenico, Anna qui a Roma, Francesco a Bergamo. Un saluto alla Furnesetta, Cristiano Bocci, Chemical Resistance e tante tante altre cose, Maya in Umbria. Un saluto a Barbara De Dominicis, Like Wake, grossa realtà ambient, storica realtà ambient qui da Roma. Altri affezionati sono Flavio Derbecante, Arianna Degni Lombardo di Noise Cluster. Al pari delle settimane precedenti, andiamo ad iniziare con la storia della musica sperimentale italiana e quindi ci andremo a godere un ulteriore passaggio di Franco Battiato. Importanti sono stati i primissimi lavori per questo artista siciliano, compreso Pollution, che uscì al pari di Fetus nel 1972. Anche Pollution, bene o male, anche se meno rispetto a Fetus, risente della influenza prog del periodo, ma già qui si possono percepire segnali maggiori dello spostamento di Battiato verso l'avanguardia. Saluto Lucia Cagliazza di Lupsi e ci andremo ad ascoltare insieme la traccia dal nome Beta. Il mio giorno non è duro. Dentro il mare mi posso vestire, dai gamba e dai delta farmi ubbidire. Quando gioco non rompo mai niente, la violenza non ho nella mente. l'unica vita dei microorganismi che non sanno di appartenere al mio corpo. Io a quale corpo appartengo? Vado a salutare anche Mariano Anita Henry, Francesco Listado di Anabasis, che ci andremo ad ascoltare tra qualche secondo. Intanto è finito Franco Battiato. Mi sembra evidente i vari passaggi Pink Floydiani, ma anche un arguto Ernesto Panico Brusati ha notato un passaggio che ci ha ricordato a entrambi l'abbattimento dello Zeppelin degli Area da Arbeit McFry, che sarebbe uscito l'anno successivo. E velocemente, grazie anche a Polluscio, Battiato si avviava verso la fase sperimentale che culminò sulle corde di Aries con Click, Mademoiselle e Gladiator. L'omonimo Franco Battiato, Jukebox l'Egitto prima delle sabbie, e poi finì con questo album la prima fase artistica di Battiato, che andò poi sull'idi più pop, ma il cosiddetto pop intelligente, che si andava ad alternare ad altre pagine sperimentali. Saluto Nicola Locci, affezionatissimo di Stigmate and Hexagonal. E adesso in maniera prepotente andiamo ai giorni nostri. Francesco Di Stasio e il suo Nihil Impulse, il suo moniker principale, e Anabasis, il suo terzo lavoro, che esce attraverso la 8 Tower Records di, naturalmente, di Raffaele Pezzella. I drone profondamente cupi, ma anche i passaggi al confine del Martial. Il rigore industrial che si può anche constatare in questa Nomad Insurgency. Nomad Insurgency, esattamente, questo è il titolo. Thank you. Il paradigma sonoro di Anabasis ci porta in territori spigolosi e oscuri. E Anabasis dà la conferma come valore per questo artista romano, Francesco Di Stasio, Nihil Impulse. Da un po' di tempo ormai è accasato presso le etichette di Raffaele Pezzella, Anabasis presso la 8 Tower Records. E adesso ci andiamo a parametrare con un punto di riferimento storico della scena che affolla prove tecniche di trasmissione. E sto parlando degli Einstürzende Neubauten. Naturalmente non mi era sfuggito l'ultimo lavoro uscito 2 mesi fa, in aprile. Si chiama Rampen Alien Pop Music, un album che chiaramente è lontano dagli esordi che io personalmente ho più preferito. C'è la conferma di una forma canzone che però riprende parzialmente i clanglori industriali degli inizi. Lo conosceremo ben bene nella prosecuzione anche dell'estate. Sarà presente in prove tecniche per molte puntate, lo ascolteremo quasi tutto. Si apre con Wie lang noch e Ist Ist. Alles schon geschrieben. Alles schon gesagt. Das Innere der Zwiebel. Längsschnitt ausgelesen und vertagt. Der Müll wird ausgewurzelt. Ein Solitär wird hergerollt. Alles schon besungen, alles schon passiert. Wie lange noch? Wie lange noch? Wie lange noch? Wie lange noch? Wie lange noch? gesungen. Alles schon gedacht. Die Tricks sind ausgegangen. Gedruckt mit Blut auf Flügeln und unters Volk gebracht. In diesem Sinne. Thank you. una selva di percuotimenti metallici. Old Style per gli Einstürzen und Neubauten in questa East East, peraltro uscita anche come, diciamo, singolo. Ma anche l'apertura Wie lange noch, un oscuro excursus tipico, nel tipico stile di Blixa Bargeld e soci. Al momento dovrebbero essere, oltre Bargeld, Alexander Hake, FM A Night, ossia Andrew Chudy, Jochen Harbeit, Rudy Moser. I'm sitting in my chair. Allora andiamo avanti, 21.37, questa è Radio Onda Rossa, queste prove tecniche di trasmissione. Peraltro vi dico che nel palinsesto, diciamo, di Onda Rossa c'è stato un piccolo cambiamento. Sono state inserite delle repliche, credo già operative. Per esempio di Disorder si può sentire in replica anche il venerdì sera alle 19.30, prima di della, diciamo, serata usuale, serale appunto del venerdì, dove c'è In Noctibus Panis, anche quello uno spazio di musica oscura, neofolk, gothic, abbastanza interessante. And a click track to my ear. Ancora Italia. Andiamo però nel sottobosco romano, rappresentato da un'ottima voce femminile che porta il nome di Barbara De Dominicis, spoken word ma anche essenza elettroacustica e quindi anima ultra sperimentale. Un'anima che pervade in maniera totale questo Body Maps, album che sancisce il ritorno sulle scene di questa artista romana dopo molti anni di assenza. Give me a beck of short grain rice. Ci ascolteremo la quarta traccia dal nome Heart Unbeaten e la sesta Womb, la reprise del Womb, che in realtà è presente anche come traccia che ci siamo ascoltati la scorsa settimana. From a long gone. Slow down. Bit now, fall. down and moved a bit forward. Move on, go a little faster. My heart, for once it was his own. I cherish his because in me it bites. It's just going faster, faster, faster, and suddenly slowing. Affollavano Heart I'm Beating, estratta da Body Maps per Barbara De Dominicis, Spoken Word e andamenti, diciamo, di elettroacustica sperimentale, ma anche passaggi agli archi che ci hanno ricordato Teo Teardo, che peraltro partecipa anche in un brano di questo Body Maps. Sono presenti anche Marco Bonini, Andrea Messina ed altri personaggi noti della scena sotterranea romana, ma non solo. un album cavernoso, ma a suo modo anche sognante, con un'impostazione anche vocale che ci ricorda il jazz notturno. Andiamo avanti, or dunque, e lo facciamo con Gianluca Bicuzzi. Gianluca Bicuzzi, di lui andiamo a riascoltare E Kate, il suo ultimo lavoro. In previsione c'è, ci dovrebbe essere anche un'altra uscita entro la fine dell'anno. Per adesso ci godiamo E Kate, uscito attraverso la Dissipatio, la label di Nicola Quiriconi. Ecco che parte Dystonic Cult e poi una porzione della lunga Evil Nature and Myth. Make my hands clever, clever. They know how to find you even when you're not there. Do you know that your hands will always, always find me there after my legs? Skin. intensità di Gianluca Becuzzi, che va ad unire egregiamente il suo essere quasi sciamanico e mantrico con l'energia doom metal che spesso mette in tutti i suoi lavori, soprattutto negli ultimi anni. E Kate, che si ispira alla mitologia greca, a Ecate. Un album che vede la partecipazione anche di Adriano Zanni, Andrea Bellucci, Dayzon e Daniele Santagiuliana in questo brano, anzi nel quinto brano, quello precedente, e anche nel terzo che ci siamo già sentiti. Intanto saluto Sara Capofontana di Zaide. Domani si sentirà il podcast, che puntualmente scomparirà la mattina, domani mattina. Intanto saluto 25 o'clock che...